Squilla il telefono. Pronto. È la signorina Inaina che parla per conto dell'Istituto di Analisi della Figura. Domanda. Nel suo nucleo familiare c'è una moglie, una figlia? Perché vede, l'Istituto di Analisi della Figura sta promuovendo un pacchetto di offerte speciali, analisi gratis e offerta speciale per una serie di sedute risolutive. Dico, guardi, mogli e figlie adesso non ce n'è, ma in compenso, guardi, c'è una nonna un po' in là con gli anni, dopo i 90, ma c'è. Mi dispiace, tronca subito la signorina Inaina, la nostra offerta per lei non è valida. Ah, così come è implicito che la figura che si vuole analizzare è quella femminile, così è implicito che il femminile sia una categoria a tempo, scade dopo un certo periodo. Tuttavia c'è una certa discrepanza ideologica fra una linea narrativa del cinema e i sottili distinguo dell'Istituto di Analisi della Figura. Assodato che il binomio fra sesso e vecchiaia ci venga consegnato intorno al 68. Harold e Maud, storia del rapporto fra un adolescente e una vispa ottantenne, è del 72. Come intorno a quegli anni si svolgono le vicende oggetto della durissima e sacrosanta critica di Thomas Shash in Sesso a tutti i costi, un saggio in cui si cercava per l'appunto di liberare gli anziani dall'ultimo obbligo ideologico della vita, ovvero dal sesso. Assodato ciò, è presumibilmente nel tempo delle mele di Claude Pinoteau che appare una certa configurazione morale e civile di nonna. La Boom, così era il titolo originale del tempo delle mele. La Boom è un film del 1980, architettato con il bilancino della morale per rassicurare la piccola borghesia circa la setticità ideologica della condotta sessuale dei propri figli. Dalla Boom, ovvero dal party autogovernato dai nuovi adolescenti, non avrebbe preso piede alcuna rivoluzione e la richiesta di anticipare di qualche mese i primi approcci sessuali era perfettamente in linea con le esigenze, diciamo così, estensive del mercato. Tanto è vero che demiurgo di questa fase di passaggio non sarebbe stato né il comunismo, né l'anarchismo, né Lenin, né Bakunin, ma la nonna. Anzi, in questo caso primigenio, nel tempo delle mele, perfino una bisnonna. È la bisnonna della torbidamente tenera Sophie Marceau, infatti, che coprolalica e sessuomane a parole quanto basta per carpire la fiducia dei ragazzi e assennatissima quanto è necessario a programmare un'educazione sentimentale a metà strada fra Don Bosco e San Domenico Savio, conduce nipotina e pretendenti lungo le impervie vie della transazione e del compromesso sociale. Da lì la nonna demiurgo, la nonna che capisce ciò che ai genitori è negato, la nonna che ripara i guasti prodotti dal perbenismo, la nonna che sana a suon di trasgressioni il baratro fra le generazioni cavando dalle ultime quanto risulta impossibile alle prime. Da lì questa nonna, che è anche diciamolo figlia della crisi del matrimonio borghese, comincia la sua avventura di eroe positivo nelle narrazioni popolari. Ce n'era traccia cospicua, per esempio, in Chocolat di Lasse Hallström. Ce n'è traccia in Lunedì mattina del georgiano francesizzatissimo Otario Seliani. Ce n'è traccia in Tanguy, un filmettino superficialotto che Etienne Chatillier ha dedicato a quei figli d'oggi che, non essendo stati trattati male da genitori elegantemente anti-autoritari, non hanno nessuna seria intenzione di andarsene da casa. Nonne che liberano il nipote dal bigottismo dei genitori o che giocano allegramente con quei nipoti che ai genitori non rivolgono neppure un saluto. o che addirittura spiegano per filo e per segno ai genitori l'eziologia del malanno sociale che si ritrovano per casa. Nonne che fumano, bevono, guidano auto decappottabili, si curano il diabete a stecche di cioccolata, mostrano ai giovani nipoti la tecnica del riscatto da una vita opprimente e bacchettona. Il modello della nonna Sabella, lattina pica diretta da Risi nel 57, il modello di nonna insopportabilmente autoritaria e ficcanaso, chiusa a doppia mandata nel proprio egoismo e fin avidamente sadica, beh, questo modello sembra ormai obsoleto. Tanto è vero che l'evoluzione cinematografica trova parecchi riscontri fin in ambiti insospettabili. Come un tempo sui muscoli del maschiaccio stava disegnata la donnina nuda o qualche simbolo della ribellione a seconda delle priorità, oggi sui medesimi muscoli c'è il rischio di trovarci l'immagine della nonna. È la scelta per esempio di un campione del basket, Rashard Griffith, in forza quest'anno alla Kinder Bologna. Non è il solo a caricare le spalle della nonna di valori positivi. A quanto leggo sulla Gazzetta dello Sport, nella biografia ufficiale della vecchia gloria Charles Barkley, si dice che il nostro è stato cresciuto dalla nonna materna a cui deve l'insegnamento dei valori che lo hanno portato al successo. Tim Hardaway invece si accontenterebbe di disegnare sulle proprie scarpe da gioco le iniziali della nonna, mentre tanti altri, a quanto pare, in un modo o nell'altro, sentono la necessità di esibire socialmente questo loro legame. Alla borsa delle parentele, insomma, al tracollo dei genitori, al sostanziale equilibrio delle zie, che nell'ambiguità continuano a sguazzare, sia prima che dopo quel grazie zia che Samperi fece pronunciare sommessamente dal 68 in avanti, beh, a questi tracolli, a questi equilibri fa riscontro il trend positivo delle nonne, l'ultimo bene rifugio, l'unico investimento affettivo capace ancora di fruttare interessi cospicui. E tuttavia i conti non tornano. Saranno pure questa meraviglia le nonne, ma indubbiamente, per quanto guadagnano sul simbolico, perdono sul fattuale. Istituzione che giri, discriminazioni che trovi. Sorge il sospetto che tanta enfasi nasconda un caso esemplare di falsa coscienza collettiva, come un lapsus che pretenda di asseverare una cosa ma in realtà ne tradisca tutt'altra che si avrebbe preferito nascondere. La vecchiaia fa paura e imbarazza come tutto ciò che fa paura. Per una nonna che fuma, per una nonna che beve, guida l'auto decappottabile in un racconto, ce ne sono mille, centomila, la cui prospettiva più rosea nella realtà è la perdita del senno di sé e del mondo in un ospizio. La cartina di tornasole la fornisce proprio l'istituto di analisi della figura, escludendo le forme della nonna dal repertorio del passibile di analisi. Perché laddove ad una persona viene negata la sua dimensione estetica, la persona in quanto tale, non c'è più.